Dante disgraziato vuole che paghi il fio, indegna sfacciatella, che ti pare? A un uom della mia sorte, a un padrone che t'ama. Come ho torto, se ho vidi? Mi ingannate. Perché dunque con me fai la ritrosa? Sei tanto schizzinosa. Mio caro padroncino, oh, se sapeste quanto sono infelice. Non temer, idol mio, vieni con me. Più non resisto. Ma cara, tu sei l'amato oggetto che il cor non so che dir, io non commetto. Andiamo! Perdonate, io non deggio, non posso. Come? Come? Perché? Perché non voglio! Alfine! Alfin, tu sei una vil serva che l'alzar procuro. E quale ragione, qual dritto avete voi di insultarmi così, di minacciarmi?